X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Noi lanceremo una Stati Generali dei quartieri di Roma, che sono l'unico elemento dove c'è ancora una fiamma etica di appartenenza dei romani. Perché io credo che la politica, per riconciliarci con la gente, deve partire dalle cose concrete che riguardano il quotidiano di ognuno di noi. Da questi Stati Generali usciranno le 10 proposte per ogni singolo quartiere e su quelle noi apriremo una consultazione a chi vuole confrontarsi su un progetto preciso per la città. Questo è l'unico modo per mettere su un binario parallelo la politica, lasciando che la magistratura faccia quello che deve fare. Io credo che Marino, se è convinto di stare nel giusto, deve dimettersi e in caso candidarsi solo o con chi supporterà la sua candidatura. E con le parole di Alfio Marchini, ieri sera a Linea Notte su Rai 3, in fondo almeno una proposta sta uscendo, Mario, no? Ma allora, intanto si stanno cominciando a chiarire un po' le cose, cioè che Marino non ha più il supporto pieno del Partito Democratico. Non ce l'ha proprio, certo. Penso che Marino farebbe un favore a Renzi dimettendosi a questo punto, solo che non glielo vuole fare. Sì, ma forse sarà ragioni. Costretto a farlo, perché ho l'impressione che gli eventi mi tre consiglieri che si sono autosospesi, le dimissioni in massa di Bernabé e del suo consiglio di amministrazione, insomma tutti i segnali che è difficile resistere. Sai, quando le cose rotolano a valle, prima o poi devi prendere. Comunque questa proposta di Marchini mi sembra un po' grillina, ma almeno è un punto di partenza chiaro e concreto. Beh, lui deve essere un po' grillino. Appunto. Che acquista un ruolo centrale nella soluzione della crisi. Io lo dissi l'altra volta, no? Chi fa la coalizione con lui probabilmente vince le elezioni. Bene, comunque ha un'opportunità. Va bene, noi staremo a vedere questa telenovela come evolve e la seguiremo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Sigaretta, due pacchetti mille lire. Dammene 10 sticker, ce l'hai? No, e ve le posso procurare. Dove le abbiamo prese queste sigarette? Ieri sera abbiamo fatto uno sbarco al porto di Brindisi. Basta con le chiacchiere, diamo un'occhiata alla merce. Ma lo capite che è un affare? Questa roba la fumano anche i bambini, la piazzate subito, lo vedete questo, lo vedete? È un bollo federale, che volete di più? Non rischiate niente! E da dove viene questo tabacco? È dal nord, confine jugoslavo. 2000 casse, avete detto? Sì, 2000 casse. Ci vediamo stasera a Bar della Repubblica, Salvatore sa dov'è. Ci vogliamo fumare una bella sigaretta in santa pace? Fumiamocela. Sigaretta! Ma qua galera, ha giovuto molto perché faccio contrabbando le sigarette. Ma non sapete quanto tempo ci mette per guadagnare 28.000 lire? E come campamba? Come mangio, figlio mio? Era Sofia Loren nella Ciociara, forse siamo tornati da quelle parti. Il mercato nero delle bionde, infatti, il mercato del contrabbando di sigarette è in continuo aumento. Solo nel 2014 rappresentava il 5,6% del mercato totale italiano del fumo. Ma un italiano su tre considera il contrabbando di sigarette meno grave di altre attività criminali. Roberto Gallullo, che è inviato del Sole 24 Ore, ha appena realizzato un'inchiesta su questo tema. Ecco perché, Roberto, gli italiani considerano il contrabbando di sigarette un reato di serie B o comunque qualcosa di poco grave. Ma è sempre stato così storicamente negli anni, non scopriamo nulla di nuovo. Basti ricordare il film del 1963, Ieri, Oggi e Domani, interpretato da Sofia Loren. Ebbene, ricorderemo che lì questa donna continuava a ricorrere alla maternità pur di non finire in carcere per le strade. Per i vicoli di Napoli era considerata qualcosa quasi di normale. Ecco, poi è diminuito, però poi è ripreso. È la crisi economica che ha rilanciato in qualche modo il mercato nero? Ma certo, non c'è altra spiegazione. La crisi economica delle famiglie italiane le spinge sempre di più, anche a costo della salute, a ricorrere al mercato di contrabbando. Ma chi si nasconde dietro gli ambulanti che sfruttano questi tabagisti squattrinati, diciamo? Questi qui sono ovviamente l'ultima catena, l'ultimo anello di una catena, esattamente di una filiera che io definivo nell'inchiesta il moderno schiavismo del contrabbando. Dietro si c'erano solo ed unicamente le grandi organizzazioni criminali e le grandi famiglie mafiose. Quindi alla testa di questa filiera c'è la grande criminalità organizzata? Eh? Ma assolutamente sì, questo qui è fuori di dubbio, non soltanto quella italiana, ma c'è la mafia cinese, c'è la mafia russa, ci sono le varie mafie che operano in tutti i continenti di questo pianeta, quindi non potrebbe che essere così. E hanno riscoperto insomma, i vantaggi di questo tipo di traffico, diciamo? Riscoprire è un verbo parzialmente corretto, nel senso che il contrabbando è sempre esistito, perché noi non dobbiamo prendere in considerazione soltanto l'Italia. Ci sono dei paesi in cui il costo della sigaretta è molto maggiore, è maggiore rispetto all'Italia, in cui il contrabbando è molto più forte che in Italia. Quindi noi forse dal 2007 a questa parte l'abbiamo riscoperto in qualche modo. Esattamente, ecco, ma in tutta Europa è sempre esistito. Ecco, ma chi sono i broker del contrabbando? Cosa ma fanno? Sono le grandi famiglie che hanno disponibilità economica. Sono famiglie che oramai assumono un moderno atteggiamento che è proprio quello del broker, cioè puntano delle cifre, puntano soldi, ciascuno per la propria quota parte, dopodiché se il carico va a buon fine, quindi la merce arriva a destinazione, ricevono proporzionalmente un guadagno in proporzione a quanto hanno puntato. E qual è l'entità dei profitti? Cioè la percentuale più o meno dei profitti illeciti si può quantificare? Io mi occupo di mafia, di criminalità organizzata, di economia criminale ormai da tantissimi anni al Sole 24 Ore, certo. E questo forse è uno dei pochi settori nei quali è impossibile fare un calcolo preciso. Facciamo però un calcolo a ritroso, vale a dire, secondo le stime che sono state fatte per quest'anno, cioè il 2015, l'erario incasserà almeno 1 miliardo in meno rispetto all'anno precedente quanto a dazi, IVA e accise. Addirittura 1 miliardo? Un miliardo in meno, sì signori, nel 2014 è stato pari a 770 milioni, quest'anno la stima è di almeno 1 miliardo. Prezzo medio di un pacco di sigarette di contrabbando qual è? Il costo medio di un pacchetto di sigarette di contrabbando è di 2,50, massimo 3 euro. Poi questo qui varia a seconda che si acquisti a Napoli, certo. A seconda che si acquisti a Bari, a Milano. Per esempio a Milano costa di più. Molto di più? Ma a Milano la criminalità si è ingegnata, vale a dire va a domicilio presso i locali della Movida a Milano, a quando i ragazzi escono fuori e sono senza sigarette, acquistano a qualsiasi prezzo il pacchetto e quindi costa anche di più. Che è come il biglietto della partita cosa. All'ultimo momento, insomma. Sì, esattamente, però volevo dire un'altra cosa, sì, al miliardo si aggiungono i 400 milioni di euro che quest'anno verranno persi dalla filiera tabacchicola italiana, perché pochissimi sanno che l'Italia è al primo posto nella produzione di tabacco in Europa e al 14° posto nel mondo. Quindi c'è un danno enorme per l'agricoltura e per l'economia italiana. Ma da dove vengono le sigarette? Cioè dove vengono fabbricate? Vengono fabbricate laddove ci sono pochissimi controlli, non soltanto sanitari ma anche sociali, anche delle attività investigative e delle forze dell'ordine, quindi vuol dire Cina, dove c'è un mercato pazzesco, vuol dire l'Ucraina, vuol dire la Polonia, vuol dire il Montenegro, vuol dire i paesi dei Balcani, la Turchia, cioè sono i paesi, diciamo. E in Italia fabbriche di sigarette di contrabbando? No. No. Allora, ecco, ma dimmi una cosa, non sono solo di contrabbando, sono anche contraffatte, cioè assolutamente assolutamente come sono fatte? Vuol dire che ci sono delle sigarette che sono le cosiddette cheap white, vale a dire quelle che sono fatte in quei paesi che dicevamo prima e che vengono introdotte nel mercato italiano, nel mercato europeo senza poterlo essere, vale a dire che sono prive di tutte quelle tutele, quelle garanzie. Certo. E poi ci sono quelle contraffatte, vuol dire il pacchetto della nota multinazionale, non facciamo pubblicità, che diventa automaticamente lo stesso pacchetto, peccato che sia falso. E quindi sono molto pericolose per la salute, più del fumo normale. Ma su questo non ci sono dubbi, tutti i controlli fatti testimoniano questo qui, sono enormemente più dannose. Ma perché, come vengono fatte? Cosa c'è dentro di diverso? Ma dentro c'è tabacco lavorato non controllato, che non corrisponde sicuramente agli altissimi parametri sanitari che si hanno in Italia e in Europa, quindi anche il tabacco di risulta, senza contare che poi ci sono le dosi di nicotina e di sostanze proibite in Italia e in Europa, altamente più elevate. È un fenomeno, l'hai detto, che non riguarda solo il sud d'Italia, anche il nord, dappertutto, insomma. Allora, è chiaro chiaro che le piazze del contrabbando sono quelle dove ci sono i grandi porti, e quindi vuol dire che c'è un accesso molto più facile dei container, quindi vuol dire Gioia Tauro, Salerno, Brindisi, Taranto, tutte le aree portuali. Ma poi è chiaro che questi carichi prendono le strade più impensate dell'Italia e del Nord Europa e quindi raggiungono un po' tutta l'Italia. Roma paradossalmente è una città meno sensibile al fascino del contrabbando rispetto a Milano. Ma attenzione, è soltanto una questione di tempo, non illudiamoci. Per chiudere, la città più fiorente? Ma la città più fiorente, senza dubbio, Napoli, proprio per la tradizione che questa città mantiene ha, la sua tradizione. Mantiene certo. Assolutamente la sua tradizione negativa, purtroppo. Ecco, molti ascoltatori come Andrea non sono affatto sorpresi che un paese di evasori consideri il contrabbando un reato minore. Sono in tanti che ci scrivono in questo senso. 800 24 00 24. Il numero verde 349-238-6666, l'SMS. Cesare Sirignano è sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Ecco, vorrei chiedere, ma il contrabbando di sigarette che tipo di organizzazioni criminali alimenta? Guardi, il contrabbando di sigarette da sempre è un'attività che comunque finanzia le organizzazioni criminali. Si tratta di un'attività più o meno remunerativa, ma poco rischiosa dal punto di vista delle conseguenze penali, per cui molte organizzazioni criminali si dedicano... Rende poco, ma si rischia poco, insomma. Esatto, sì. Senta, ma la criminalità organizzata italiana si appoggia a organizzazioni internazionali in questo settore? Per l'esperienza che ho maturato io negli anni di antimafia, soprattutto le organizzazioni napoletane sicuramente si sono organizzate anche all'estero, in Polonia, quindi hanno delle basi operative, ma che sono però di napoletani che si sono trasferiti in quelle località. Ecco, dottor Sirignano, ma quali sono le rotte di questo commercio, se esistono delle rotte prevalenti? Guardi, le rotte prevalenti degli ultimi anni sono sicuramente dall'est Europa, dalla Ucraina e dalla Polonia. Però sono state accertate anche rotte dalla Cina e dai paesi del Nord Africa, prevalentemente comunque dall'Ucraina e dalla Polonia. Dottor Sirignano, voi riuscite a collaborare con i paesi di queste rotte oppure no? Con l'Ucraina con molte difficoltà, con la Cina addirittura è proprio impossibile, perché abbiamo anche difficoltà di comunicazione, certo. Oltre che... poche convenzioni, insomma, che ci consentono una cooperazione. Lei ha detto che il problema è la sottovalutazione dello Stato di questo commercio illegale. Perché sottovalutato? Sottovalutato nel senso che purtroppo non si agisce sotto un duplice profilo. Innanzitutto, prevedendo delle accise molto alte, quindi si incentiva l'uso di sigarette di contrabbando. E dall'altro lato le pene per i reati di contrabbando sono abbastanza basse, per cui rendono conveniente sia per le organizzazioni che per i cittadini, insomma, il contrabbando. Cioè, come diceva prima, certo. Senta, dottor Sirignano, ma le grandi società che producono sigarette collaborano con voi o no? Sì, però non sono protagonisti, insomma, della lotta al contrabbando. Collaborano, come è accaduto a Napoli, attraverso dei convegni dove si sensibilizza l'opinione pubblica attraverso i giornali, però diciamo che l'autorità giudiziaria e le forze di polizia non hanno un contributo, perché non lo cercano, questo contributo. Ma non lo cercano perché le grandi società non hanno interesse a collaborare o perché? No, non credo che non abbiano interesse, credo che si tratti di due mondi che oggi non ancora si incrociano. Ma perché sono quote marginali del loro commercio, delle loro vendite? Io penso di sì, però è soltanto una mia opinione, chiaramente, certo, naturalmente. Non fondata su dati certi. Sì. Senta, ma quante sigarette di contrabbando vengono sequestrate in media in un anno, in un paese come l'Italia? Non le so dare con certezza, ma grosso modo, tonnellate e tonnellate di sigarette di contrabbando soltanto nel territorio campano sono centinaia di tonnellate di sigarette, quindi sono un quantitativo molto elevato, e pensi che si tratta chiaramente di una percentuale bassissima di quelle che giungono nel territorio ma italiano. Perché è il territorio, la zona nelle quali approdano di più queste sigarette di contrabbando, qual è? È napoletano oppure anche napoletano, altre zone? Sicuramente napoletano, pugliese e anche forse calabrese, però prevalentemente... Ma perché arrivano dal mare poi alla fine? Arrivavano dal mare, adesso arrivano attraverso dei tir, quindi anche dalla Spagna, insomma le rotte sono diverse. Quella tradizionale attività di contrabbando con i motoscafi che arrivavano alle navi che ormeggiavano al largo non c'è più. È stata sostituita da c'è stato un ministro delle finanze che a un certo punto ha perfino detto assumiamoli così interrompiamo il commercio delle sigarette, non so se si ricorda sì, lo so. Senta, ma queste sigarette di contrabbando, questi quintali, tonnellate che vengono sequestrate, che fine fanno? Dovrebbero essere distrutte, però noi come autorità giudiziaria perdiamo, diciamo, poi il controllo. Credo che vengano distrutte perché non sono commerciabili, chiaramente. Ma lo crede, ma c'è un dubbio nella sua voce, non lo so. No, non è un dubbio, è che ho l'abitudine di dire le cose che sa con certezza. Certo. Senta, dottor Sirignano, ma lei ha detto che le pene sono basse, ma le pene per i contrabbandieri quali sono? Le pene, pensi che fino ad un certo quantitativo c'è soltanto una multa, 10 kg di sigarette. Dopo questa soglia sono bassissime, sfiorano i 2 o 3 anni, ed anche per le organizzazioni criminali, per i capi e i promotori di queste organizzazioni criminali, laddove l'organizzazione sia anche armata con tutte le aggravanti, arrivano a 15 anni di reclusione pena massima. Sì, quindi... Se lei pensa che per il traffico di sostanze stupefacenti il promotore viene condannato ad una pena di 30 anni, certo, quindi siamo praticamente certo, a doppio. Quasi tranquilli. Senta, per chiudere, dottor Sirignano, la ringrazio. Cosa si dovrebbe fare subito per migliorare, se è possibile, questa lotta al contrabbando in Italia? Chiaramente la legislazione dovrebbe essere modificata, certo, cioè le norme dovrebbero prevedere pene più severe ed anche interventi più determinati, però credo che bisogna intervenire, come tutti i fenomeni che sono transnazionali, sulla cooperazione, cioè cercare di aprire dei tavoli con i paesi, con gli altri paesi, certo, con gli altri paesi, per evitare che questo flusso continui ad alimentare il territorio italiano e europeo in genere. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Ricordo a tutti quelli che ci scrivono che se non ci si firma è difficile, anzi non leggiamo i messaggi perché sono messaggi anonimi. Pasquale da Brescia, rispetto a quello che dicevamo prima di Marchini, a parte gli insulti, non ha capito che è esattamente quello che diciamo, cioè che bisogna andare alle elezioni. Semplicemente ci vuole pulizia su tutti i fronti e bisogna andare alle elezioni. C'è una notizia sulle bionde. Dille. Hanno sequestrato 10 tonnellate di sigarette a Gioia Tauro adesso. Ah, perfetto. Quindi, bene. Stiamo sul pezzo. Siamo sul pezzo. Pubblicità. Mix 24. When I am laid, I'm laid enough, may my wrongs create no trouble in my breast. Ciao. Ciao, buongiorno. Ci racconti questa canzone? Sì, certo, volentieri. È successo che nella solitudine, ancora prima dell'alba stamattina, incamminandomi io ho visto pietre speciali tra le pietre. Io sono a Donna Lucata adesso. E tra queste pietre ho trovato una cartella, una di quelle dove un tempo si mettevano i libri per andare a scuola. era aperta un poco e dai legacci sbracciati ne veniva fuori un canto, che è questo canto, e frugandovi dentro, mettendo uno sopra l'altro i libri, il canto è diventato sempre più chiaro e distinto. E questi libri hanno preso la forma potente, struggente, di una casa che si affaccia sul mare in attesa del ritorno, nel compimento della nostalgia, la nostalgia di lui che se ne va per i mari e per le lontananze. E questo che ascoltate è il lamento di Didone. Mario? Mario, la tua... il lamento di Didone non c'è più. Quindi andiamo con le tue bolle. Realtà. Dice di alzare il microfono di Mario Secchi, che non si sente. Alessandro Lavigne. È un po' di circo, no? Bisogna pur farlo. Spero che mi sentano. Vediamo, si sente meglio? Non lo so, vediamo. Chiediamo la regia, sì? Allora, che succede, Giovanni? Perché qua succede qualcosa. Cioè, il governo Renzi ha fatto un consiglio dei ministri ieri, ma si è imballato. Ha assunto, o meglio, assumerà nella scuola 100.000 precari, tanti auguri. A condizione che. Sì, a condizione che, quindi c'è la fiducia, dico tanti auguri, debito pubblico, e fa la prova di forza, ovviamente, su De Luca prima o poi dovrà prendere anche una decisione, perché sì, insomma ha annunciato. Però che. Ha detto che. Ha annunciato che, siamo sempre all'annuncio che. Sul fisco c'è un preludio di naufragio, cioè, voglio dire, adesso qua hanno rinviato, vediamo cosa fanno il prossimo consiglio dei ministri, venerdì, credo. Sul catasto addirittura la riforma pare sia talmente pasticciata che si paga un botto di più, insomma, però l'hanno fermata, no, quella del catasto, l'hanno rinviata. Se la davano così, a quanto pare non era proprio una cosa carina, da informazioni che avevo proprio ieri raccolte. E l'unico punto positivo in realtà riguarda i bilanci delle banche. C'è una norma che è importante, perché c'era una cosiddetta asimmetria tra le banche italiane e le banche straniere sulla defiscalizzazione delle perdite, che adesso potranno fare in un anno, delle perdite sui crediti, ovviamente. E per il resto il Consiglio dei Ministri non è che sia un buon nuovo inizio dopo la sveglia elettorale. Dunque noi aspettiamo, vediamo. Giudichiamo come sempre in base ai fatti, vediamo, non lo so, intanto... ci sono cose che bollono in pentola, come bollono in pentola, nelle e siamo prossime pronti settimane a raccontarle. Salamino. Abbasso la scuola, ma scuola scritto con la S e la Q di quadro. Questo è il senso politico della decisione di Matteo Renzi nel far mettere la fiducia sul disegno di legge. Vedete, non è solo un problema per i precari, non è una questione legata alla valutazione del preside, è gravissimo anche per i docenti di ruolo. Rischiano di restare fuori dal lavoro nell'arco di qualche anno con le contrazioni di alunni e le diminuzioni delle classi, e neppure incombe per loro il trasferimento, si resta completamente fuori senza che sia previsto il rinnovo del contratto. I docenti di ruolo impegnati in questi giorni negli esami di Stato, e sono un gravio di responsabilità e sono impegnati fino a metà luglio e non hanno orari, sapete, prendono 390 euro lordi con l'aliquota al 27%. Altro che buona scuola, altro che hashtag, questo è l'ennesimo tradimento della cultura, è la mortificazione dell'istruzione. Ed è ancora una volta, e lo faccio con Renzo Arbore, la classe degli asini. Signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Professore, io non lo so, lo dica lei. E senti siamo Massinelli, dimmi re degli assinelli, dove sono i Dardanelli? Mario, no, io cerco di trovare delle cose positive al governo, non le becco, è colpa mia, cioè, che cosa no, si può ma fare? ci sono, l'hai detto, appena detto, una, le banche, sì, vabbè, ho capito, però intanto io colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri per l'onomastico, grazie. Perché? Sì, bolla, San Giovanni. Bolla. Io starei ad ascoltarlo per ore. Sento bene. E infatti sono rimasto parecchio tempo ad ascoltarlo. Il grande Mark Knopfler dei Dire Straits, una chitarra fattata. E in realtà non stiamo in Occidente, ma andiamo a Oriente, perché. Però anche in Occidente, in realtà, perché voglio parlarti dei Samurai Bond. Sai cosa sono, Giovanni? Sono dei titoli che vengono denominati in yen, però emessi da un soggetto non giapponese. Questo era stato fatto in periodi in cui era molto conveniente farlo a causa dei tassi, eccetera. Beh, la cosa divertente è che tra le tante storie del sirtaki finanziario della Grecia c'è pure una storia di un bond ventennale, un Samurai Bond, del valore di 20 milioni. Emesso in yen, sottoscritto in Giappone, che essendo ventennale ed essendo stato emesso nel 1995, indovina quando scade? Il 14 quando? Luglio. Ah. E il sospetto, ben fondato, è che i giapponesi questi soldi poi alla fine non li vedano più. E allora sono molto, molto, molto nervosetti. È tempo di relax. È tempo di Santori. Catto, catto, catto, catto! Alleluia! Salamino! Abbiamo al telefono Patrizia Gucci, ha dato alle stampe un libro per Mondadori, La vera storia di una dinastia di successo, Gucci. Le faccio una domanda che è dettata proprio dalla curiosità e da quello che vogliono sapere tutti. Lei è la vera Patrizia Gucci? Sì, la Patrizia Gucci, figlia di Paolo Gucci, quarta generazione dal fondatore. E tutto questo perché c'è un'altra Patrizia Gucci che invece... C'è una Patrizia Reggiani che viene chiamata Patrizia Gucci erroneamente e illegalmente e purtroppo è stata molto confusa. Dopo quel fattaccio che è successo della morte di Maurizio Gucci, che era mio cugino. E questo libro lei lo ha scritto anche per affermare questa identità? Ma avevo voglia di scrivere questa bella storia italiana, italiana che nasce a Firenze, importante per la moda, per il nome, è una bella storia, le memorie vanno scritte perché sennò si dimentica, no? E quindi la voglia proprio di raccontare il primo membro della famiglia che lo racconta. Gucci sanno tutti che cos'è, ma qual è la particolarità di questa storia? La particolarità di questa storia, diciamo, è un po' la genialità e veramente il successo venuto da una qualità del prodotto eccellente. Proprio la scelta di loro, perché la cosa del marchio inizia negli anni Ottanta, invece lì iniziamo dal 1920, insomma, quindi piano piano, con pazienza e proprio dedizione e coraggio anche di poter inventare un prodotto eccezionale fatto da artigiani fiorentini, e quindi il vero segreto era il prodotto, perché piaceva talmente tanto, ha fatto sì che il tam tam di tanta gente, dall'aristocrazia, dalle celebrities, lo volevano comprare, quindi non c'era pubblicità a quei tempi lì, non c'era niente. C'era anche un assegno di Kennedy, ho visto, che fa parte della memoria della famiglia. Avevamo dei clienti incredibili da John Fitzgerald Kennedy, che è mio nonno, perché lui partì negli anni 50 in America, sono anni 50. Chiedo scusa, ma quindi questo assegno non è stato incassato? No, lui, siccome aveva un personaggio particolare, anche un uomo in gambissima, mandò, fece un po' di uno scherzo ai dipendenti di Firenze, perché l'azienda era come una famiglia, dicendo: guarda, ci devo mandare una letterina, cioè, oddio, tutti quanti, esce, cosa ci dirà, cosa ci dirà, e mandò una fotocopia di questo assegno. Quando fu aperto, si vide la firma di John Fitzgerald Kennedy. Lui, proprio il presidente John Kennedy, aveva comprato un set di valigie, e quindi lui era orgoglioso di, diciamo, di partecipare anche con i dipendenti, in cui lui voleva veramente bene, insomma. Grazie Patrizia Gucci, grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Professor Simonelli, professor buongiorno. Simonelli, buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, auguri. Sta bene, grazie, molto gentile. Senta, siamo in finale di stagione, è cominciata la stagione delle repliche, vogliamo dire qualche cosa? Ma dunque, questa storia delle repliche polemiche che si susseguono è una storia vecchia. Io ero un ragazzo. Lei è favorevole alle repliche? Se sono fatte come si deve, se sono contestualizzate, se sono ordinate, se hanno un senso. Se sono buttate lì per fare il tappabuchi, assolutamente no. Senta, ha visto professore che Canale 5 si è ricordato di Laura Antonelli con L'Innocente di Luchino Visconti, mentre la RAI mi sembra di no? Questo è una brutta cosa. Oltre a Canale 5 bisogna fare i complimenti a Iris, che ieri sera e notte ha fatto una maratona tutta dedicata a Laura Antonelli. Mentre qualche rete, non facciamo nomi ma si capisce, ha trattato Laura Antonelli come un caso umano, come un caso di cronaca nera, invitando amici più o meno sinceri che raccontavano le vicissitudini ultime, dimenticando la cosa fondamentale, che Laura Antonelli è stata un'attrice, della cui bravura si può anche discutere, ma è stata un'attrice e come tale andava trattata. Senta professore, professor Simonelli, lei è un critico televisivo, oltretutto oltre a insegnare alla Cattolica eccetera eccetera. Oggi il bravissimo Oliviero Bea sul Fatto ha qualcosa da dire sul ruolo dei critici. Il titolo è Il grasso e l'osso della critica. Aldo Grasso, che credo sia un critico del Corriere della Sera, che se l'era presa con Santoro e soprattutto con la Ferilli, Guerritore e Parietti, perché non avevano sposato non so chi dei carpentieri o qualcosa del genere. Ma la sostanza era: ma come si diventa critico televisivo? C'è un esame? C'è una crescita? No, qual è la strada? Non c'è una scuola, anche se ogni tanto si organizza qualcosa, qualche piccolo master, qualche iniziativa come per la critica cinematografica. Non c'è la patente di critico televisivo. Si diventa critici televisivi dopo piano che si è fatto. Dopo che si è fallito in televisione, alla radio, quella lì è una cosa che aiuta? Sulla questione posta da Bea, però, posso dire una cosa? Dica. È una questione molto seria. Molto seria. Io sono d'accordo con Bea al 90%, poi c'è un 10% che vorrei sottolineare. Dica. Il vero problema è che il critico televisivo, come ha insegnato il più grande critico televisivo italiano, che è stato Beniamino Placido, deve spiegare come funziona la televisione. Faccio il professore, analizzare il testo. Allora, per stare sulla questione dei carpentieri, il critico televisivo deve spiegare che significato ha semioticamente la presenza della Parietti o della Guerritore o della Ferilli in quel programma, cioè che cosa significano. Il discorso su chi hanno sposato, mi consenta la battuta, è un discorso che, come si diceva una volta, lo lasciamo fare a Novella 2000. Novella 2000 sul Corriere della Sera, mamma mia, sempre RCS. Il critico deve fare un'altra cosa, deve spiegare i meccanismi sotterranei. Bea dice quello che c'è prima, io dico quello che c'è sotto, ma non nel senso del pettegolezzo. Come funziona un sistema, come funziona un testo? Allora, Parietti, Guerritore, Ferilli sono dei significanti in quel momento, devo spiegare che significato assumono in quel testo. Il loro matrimonio non ci riguarda. C'è stata anche una Laura Antonelli, mi precisano dalla regia, una Laura Antonelli su Rai 2 ieri sera, questo per completezza di informazione. Insomma, allora, quindi insegniamo ai critici a non avere complessi nei confronti della televisione e a spiegare semplicemente che cosa c'è dentro e dietro i programmi. Grazie professore, alla prossima. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24, questa è roba nostra. Un amico mio è morto mentre sotterrava la Giulia ad un camorrista nella buca di una piscina. Prima sono tutti amici e quelli che ho chiamato per l'inaugurazione, che più non mi ha risposto nessuno. Allora, questo è un pezzettino, francobollino di un film intitolato Noi e la Giulia, molto, molto carino. L'ho usato come chiodo per appendere il quadro di una notizia, e cioè che oggi verrà svelata la forma e la sostanza della nuova macchina dell'Alfa Romeo, che è la Giulia. È un evento molto atteso nel mondo dell'automobile. Ricordo che ci sono milioni di appassionati, certo, di Alfa Romeo che da anni attendevano un suo rilancio. Parliamo di un marchio storico dell'automobile nel mondo. Quindi vedremo. Vabbè, vedremo come va a finire. Solo il nome, sì. Si è vista qualche immagine della silhouette, ma la vedremo. Segnalo una cosa così giusto per cronaca, che l'armatore Grimaldi investirà 600 milioni di euro. 600 milioni di euro per comprare delle navi per trasportare le auto prodotte da Fiat Chrysler nel mondo. 600 milioni. Tanti saluti ai peggioristi. Noi siamo miglioristi. Sara Tardelli ha intervistato Francesco De Blasi, che è il produttore di un film, Ricomincia da 80, che è già nelle sale. Sara. Questa pellicola affronta il tema della vecchiaia con Arturo, un architetto ottantenne, e dell'immigrazione con Riyad, il suo badante cingalese. Francesco, ma da dove avete preso ispirazione? Ma l'ispirazione è venuta all'autore Gianluca Greco, e che ha riportato quanto realmente accaduto a suo zio. Quindi è una storia vera? È una storia basata su fatti realmente accaduti, che in realtà ricalca il percorso che stanno avendo tantissime famiglie che hanno bisogno di un badante per aiutare le difficoltà fisiche dei propri anziani. E anche di tanti anziani che migrano in altri paesi dove la loro pensione gli permette di avere una vita dignitosa, quindi siete... Assolutamente sì, questo è un fenomeno che si sta ampliando sempre di più, e in paesi, diciamo così, più poveri esistono delle città dedicate alle persone anziane. Chiaramente ciò che si può fare con una pensione in euro all'estero è molto di più di quanto se ne possa fare in Italia. Francesco, quindi niente rottamazione in questo film? Assolutamente, la tesi è proprio che in realtà dietro agli anziani c'è un'idea di saggezza profonda che deriva dall'anzianità e dall'esperienza, che purtroppo attualmente è stata spazzata via da fiumi di botox, lifting, mascherate varie, ma che è il tesoro di questi anziani che non perdono lucidità man mano che il fisico si logora, ma invece restano lucidi, ma hanno bisogno di conforto, di supporto, di amore, ecco. E in cambio all'amore dei più che gli più giovani dovrebbero in qualche modo regalargli, donargli, loro offrono esperienze. Assolutamente sì, non solo, ma una volta che trovano l'entusiasmo, la voglia di continuare a vivere, possono ricominciare da 80, proprio perché tutti i limiti che il logoramento del fisico gli impone in realtà vengono superati con il buon umore, con l'entusiasmo, con la passione. Ecco, Arturo, che appunto ha 80 anni nel film, come fa a ricominciare a vivere? In che modo? Ma lui innanzitutto sceglie un badante, e la sua scelta lì per lì lascia perplessi, perché sceglie una persona che ha la sua stessa età, ma questo rapporto, che inizialmente sembra soltanto di lavoro, diventa un'amicizia, e nell'amicizia che Arturo riscopre la gioia, la voglia di vivere nonostante i suoi problemi fisici. E il fatto che il protagonista, un italiano, debba andarsene dal suo paese, non lascia un po' un sapore di sconfitta? No, in questo caso no, perché non lascia il paese pieno di amarezza e di delusione, ma lascia il paese con la voglia di ricominciare a vivere e di trovare nuovi spazi insieme al suo nuovo amico cingalese. Allora andremo tutti al cinema a farci venire buon umore guardando Ricomincio da 80. Assolutamente sì, è un messaggio positivo in un momento molto caldo, ma che ci ricorda che tantissime persone che vengono a lavorare in questo paese sono persone per bene di cui ci possiamo fidare. Grazie. Allora ricomincio da 80, che già nelle sale il film prodotto da Francesco De Blasi, un po' di ottimismo anche sulla terza, quarta, quinta età, non so qual è esattamente. E Marina Milone, che cosa ci racconti oggi dopo il giornale radio? Giovanni, sai cosa succedeva il 24 giugno di 50 anni fa? Ahimè sì, ma raccontacelo tu. Al Vigorelli di Milano arrivano niente di meno che i Beatles. Era la loro prima volta in Italia e nessuno avrebbe mai immaginato che sarebbe stata anche l'ultima. Suonano a Milano, Genova, Roma e ad attenderli ovviamente il delirio. A Mix 24, 50 anni dopo il loro tour, raccontiamo la storia dei Fab Four. Bene, e allora dopo il giornale radio la storia dei Beatles e del loro exploit in Italia. Per chi volesse riascoltare questa puntata, siamo naturalmente in replica ogni sera alle 23 e prima della pubblicità e del giornale radio la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino. Descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri. E la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni.